Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Emanuela Preceruti è stata uccisa nella sua casa di Dorno, Pavia, dall'uomo quale era legata da circa 2 anni. Lei lo voleva lasciare, ma lui, Roberto Garini, 51enne infermiere del Policlinico San Matteo di Pavia, non si dava pace. Dopo l'ennesima lite ha spaccato la vetrata della porta d'ingresso dell'abitazione, ha raggiunto la donna al piano di sopra e ha sparato. Ieri sera ho sentito le porte sbattere, chiedevano aiuto dalla finestra così. E io mi sono affacciato, ma dopo neanche un minuto ho sentito 4-5 spari. Colpi che hanno raggiunto la donna alla testa e al torace. Con lei c'era anche la figlia, 12enne. La sua fortuna è stata quella di fingersi morta. Sono stati i vicini di casa ad avvertire i carabinieri e lui, il 118, venite, ho ucciso la mia compagna, avrebbe detto. I militari l'hanno trovato abbracciato al cadavere della donna. Oggi parliamo di femminicidio. È un termine che a me non piace, lo dico sinceramente. Non piace perché? Perché l'abuso che ne è stato fatto in maniera politicizzata ha tolto la vera essenza che contiene in realtà questo termine, che denuncia sicuramente una verità, ma quando un termine è troppo sulla bocca di tutti e se ne intuisce la non totale sincerità rispetto agli intenti, beh, il termine si deprezza, perde il suo senso. Oggi voglio ridare senso al termine femminicidio. Innanzitutto, cos'è che dà fastidio in questo termine? Dà fastidio che sia diventato un neologismo che molte volte sembra voler sottolineare una sorta di attacco generalizzato al genere maschile, rientra nelle categorie del politicamente corretto, che in realtà è stata la lenta, graduale e fatale uccisione di ogni possibilità di civilizzazione rispetto all'anima bestiale di noi uomini. Ci siamo talmente concentrati sul dimostrare esteriormente di essere perfettamente in linea con la civilizzazione dei nostri tempi che molte volte abbiamo perso l'essenza di ciò che dovrebbe in realtà rappresentare un comportamento coerente al modo di essere e di dichiararsi. Conosco un'infinità di uomini, e lo dico prendendomene tutte le responsabilità, che apparentemente sono dei modelli specchiatissimi di rispetto dei valori, di totale osservanza dei diritti delle minoranze, di politica apertissima a tutte le possibili istanze della gente più debole, la gente più maltrattata, degli immigranti, dei profughi, delle minoranze, che in realtà picchiano le loro mogli. Maltrattano le loro donne, le maltrattano, ma non semplicemente come tutti noi maltrattiamo quotidianamente le donne in cui abbiamo a che fare, molte volte mostrandoci altezzosi, mostrandoci rudi e imponendo quella che è la nostra superiorità di forza fisica anche semplicemente con comportamenti sgarbati. Noi tutti siamo maltrattatori di donne nella nostra vita, lo siamo, lo dobbiamo ammettere, lo dobbiamo capire, dobbiamo migliorarci per evitare che la normale dialettica nel rapporto fra maschio e femmina si esaurisca con dei comportamenti vessatori. Si può impugnare il proprio diritto di essere ascoltati, di essere considerati, di essere creduti, anche semplicemente non ricorrendo poi a quella che è una superiorità data dal fatto che fisicamente siamo più forti. Alla fine, due soli in una stanza, quello più forte prevale sempre su quello più debole, anche se quello più debole ha più argomenti, ha più ragioni, perché quello più forte alza la voce e l'altro ha paura e deve azzittarsi. E se continua a parlare rischia di prendere delle botte o rischia comunque di essere messo in minoranza. Questo è il senso profondo, la scaturigine a cui nasce poi l'idea del femminicidio. Sì, è vero, nel 2016 58 donne sono state uccise in Italia, i loro partner, fidanzati, mariti, amanti, persone comunque stanno loro accanto con l'idea generale che le amassero, le volessero bene o perlomeno avessero una sorta di patto di vicinanza con loro. Invece le hanno ammazzate. Perché le hanno ammazzate? Le hanno ammazzate probabilmente perché erano incapaci di gestire quel rapporto. Adesso già immagino, telefonate, ci sono anche uomini ammazzati alle donne, certo, uomini ammazzati alle donne, probabilmente, ammazzati però sicuramente in misura minore e sicuramente questo rappresenta un'eccezione. Il femminicidio comincia, secondo me, dal giorno in cui uno decide di sottomettere una donna, di sottometterla magari con sistemi socialmente accettati, semplicemente impedendole comunque di avere una sua autonomia, impedendole di avere opinioni, tartassandola quotidianamente con la sopraffazione del proprio giudizio su ogni cosa che lei fa. Questo dovrebbe stabilire un rapporto di possesso nella allucinazione del maschio nei confronti della femmina. Io posseggo questa donna, cosa dice? La mia donna, la donna che posseggo, la donna che mi appartiene, ti sei fatto portare via la tua donna. Sarebbe bello un momento in cui nessuno pensasse che un altro essere umano è il suo, è per scelta, passa con te alcuni momenti della sua vita, la sua emotività, della sua affettività, però è probabile che possa ogni momento decidere che questa cosa finisca. Oggi gli uomini non si possono più rassegnare che finisca quello che una volta era sancito da leggi divine, da leggi dello Stato, da leggi della tribù. Mai una donna sarebbe sognata in epoche arcaiche di allontanarsi dall'uomo che la possiede, che l'ha comprata, che l'ha sposata, che per un patto generalmente accettato fosse sua. Oggi le donne hanno l'autonomia. La grande conquista della donna occidentale civilizzata è la sua autonomia. Può decidere, anche se questo è un principio molto messo in crisi. La donna che può decidere è una donna che fa paura agli uomini che ancora pensano che le donne non possano decidere, che il loro giudizio valga sopra quello delle donne. Da qui nasce il femminicidio. 800240024. Oggi vorrei parlare con gli uomini rispetto alla mia aperta confessione di essere comunque stato un maltrattatore di donne nel corso della mia vita, e continuerò a maltrattare donne, perché continuerò a imporre il mio giudizio, ad alzare la voce, ad arrabbiarmi, a essere comunque molte volte un uomo iracondo, ma non sono un femminicida. Secondo voi qual è lo scatto per cui a un certo punto si perde il controllo di sé e comincia ad allucinare l'idea che quella cosa tu la possiedi? Dico cosa? Non essere umano. E se questa ti sfugge non merita più di vivere. 800240024, tra poco. Melog, cronache meridiane. Mi sono tornata con la memoria a una mia storia personale con un uomo che all'apparenza è la persona più socievole, più buona, più generosa, più simpatica del mondo, pieno di amici, pieno di persone che lo adorano, lo stimano. Tutto sommato anch'io ero così nei suoi confronti, finché a un certo punto il nostro rapporto, che è durato molti anni, è entrato in qualche modo in crisi evidentemente. Io gli chiedevo delle spiegazioni, cercavo di parlare, cercavo di superare l'ostacolo, e questo dopo due o tre risposte di rifiuto a parlarne, di accuse, di offese, ha scatenato poi un'onda di violenza totale. 800240024, oggi vogliamo che gli uomini raccontino quella che è la loro idea del concetto femminicidio, che se diventa un concetto astratto, se diventa un escamotage giornalistico, se diventa un grimaldello per comunicati stampa, perde il suo significato, si depotenzia, anzi diventa negativamente una maniera per giustificare comunque comportamenti scorretti. La chiave di tutto è in un sms che mi è appena arrivato di un furbacchione che mi scrive: quando torni a casa picchiala, tu non sai il motivo ma lei sicuramente lo sa. Ecco, è una rilettura coatta di ciò che disse la vecchia a Zarathustra nel famoso libro di Nietzsche, così parlò Zarathustra: se vai dalla donna non dimenticare la frusta. Perfetto, bellissimo, può essere un concetto filosofico che faccia riflettere, ma nell'applicazione pratica lo trovo un po' difficile, anche un po' cretino. Tu picchi la donna perché pensi comunque abbia sulla coscienza delle marachelle che non ti vuole confessare, e quindi tu picchiandola in qualche maniera le dai la giusta punizione, non ti importa perché, ma le dai, le distribuisci ogni giorno la giusta punizione di botte, quindi di violenza, così almeno lei se ne starà a posto. Ma se la donna già ti ha tradito col pensiero, con l'idea, o comunque ha fatto qualcosa per cui tu pensi che meriti quelle botte, quella donna già non ti appartiene più emotivamente, come pensi che sia possibile, lo dico all'ascoltatore che mi ha scritto questa furbata pensando di voler rappresentare una sorta di complicità maschile, ecco, cosa mai potrai pensare che rappresenterai tu per quella donna? Non sei più uomo per lei se tu la picchi. Dario, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, che piacere parlare con lei, una splendida giornata a tutti i radioascoltatori. Allora, andiamo avanti al punto. Allora, io ho una soluzione per risolvere il problema definitivamente del femminicidio, però mi servono 5 minuti buoni, le spiego. Beh, cominci, vediamo, 5 minuti sono tanti, mi spieghi la soluzione. Di meno. Allora, ci provo, io sostanzialmente sono un calcolatore, proprio l'uomo più calcolatore che ci sia sulla terra. L'approccio razionale già mi piace. Bene, Io analizzo i dati, sono un informatico, un disegnatore, mi può definire la reincarnazione di Leonardo da Vinci. Vada al punto però, sennò dico che è solamente un pieno Bravo. Di sé. Ottimo. Il punto è questo. Il problema della convivenza, io l'ho visto con i miei genitori, e se vuole le porto il caso di mio padre e di mia madre, con tutti gli amici e con le coppie che si stanno formando appena sotto i miei occhi, perché io ospito in casa mia una coppia di immigrati, purtroppo, che non hanno i documenti e che hanno bisogno d'aiuto, ma chi se ne frega. Il problema, il concetto è quali sono i fattori scatenanti che inducono un uomo a privarsi della sua dignità e toccare una donna, ok? L'ascoltatore furbo che le ha mandato l'SMS, secondo me, voleva più provocare, chiaramente, ma questo era chiaro, però fa pensare una cosa, la cultura, no? Lei mi insegna che è tutta la cultura. Come riusciamo ad inculcare un concetto in un bambino? Picchiandolo. E questo, non so, ma non è che avviene caso. Più così frequentemente che, forse nel suo caso non è successo, ecco perché non no, io sono stato molto picchiato sia dalle maestre a scuola, ai genitori, ma ho 60 anni, oggi nessuno si sognerebbe che le botte sono una maniera per inculcare un concetto. Beh, ovviamente non ha tutti i torti, però il mio concetto è che questo, anch'io sono stato picchiato e sì, ma andiamo al punto, scusa, perché sennò non posso rubare vado tempo rapido, vado rapido. Qual è la sintesi del suo pensiero? Ho due concetti. Uno, la vita, la condivisione degli spazi. Uno è quello, io non posso vivere con la mia famiglia come fanno i leoni, il leone che è grude, grezzo. Vabbè, senta, lei la tira troppo per le lunghe, non posso. Allora, le dico secondo me la sintesi di quello che dice lei, poi mi dice sì o no e poi passiamo ad un altro ascoltatore. Lei dice, in realtà il contro natura, fra virgolette, che il concetto di natura è un concetto totalmente riscrivibile ogni istante, è che le persone convivano. Se le persone non convivessero non esisterebbe il femminicidio, quindi alla base del femminicidio c'è il concetto di coppia. È questo il suo concetto? No, è lo spazio, tutto lo spazio. Se noi dividiamo la coppia, quando scoppia, ma prima, lo spazio, lo vado a dire chi cerca 50 metri quadri per andare a vivere, vorremmo tutti avere una suite a testa in due città diverse possibilmente, poter prendere l'aereo e vedersi magari per fare un weekend a Parigi, Parigi forse oggi è un po' meno preferibile, ma in un posto bello una volta ogni tanto. A me la prassi fa che gli uomini e le donne, quando decidono di stare assieme, condividano gli spazi che si possano permettere. Continui con i suoi calcoli. Dario, buongiorno. Ha parlato Fabrizio. Fabrizio, buongiorno. Fabrizio si è ammutolito, vediamo un po' se riusciamo a metterlo in onda. Ecco. Fabrizio c'è? Fabrizio è caduto. Benedirò e chiamerò la benedizione di Padre Pio e di tutti i santi in paradiso il giorno che qualcuno si deciderà a mettere le mani tecnicamente in questo studio, fare una trasmissione senza avere il supporto delle macchine necessarie. Sì, è caduto. Massimo Lattanzi, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, Massimo Lattanzi, lo ricordo che è un ospite frequente alla nostra trasmissione, è uno psicologo, uno psicoterapeuta, fondatore dell'Associazione Italiana di Psicologia e Criminologia. Coordina l'Osservatorio Nazionale dello Stalking, www.stalking.it. Perché chiamo quasi sempre Lattanzi quando parliamo di femminicidio e non chiamo persone che rappresentano l'organizzazione, i telefoni rosa, i gruppi di ascolto delle donne? Perché io voglio affrontare il problema dal punto di vista di chi compie il reato o l'azione negativa, che sono gli uomini. Sentire le donne, le testimonianze di donne, sappiamo già che esistono, le vediamo ahimè elencate come cadaveri con il cartellino all'alluce negli obitori quando è arrivato allo stadio massimo, le vediamo molte volte testimoniare, sappiamo che avviene, non possiamo fare finta che non avvenga perché basta che ci guardiamo attorno. Quante amiche ci raccontano con titubanza comunque di aver avuto un uomo che le picchiava, quante donne anche perfettamente introdotte nella società, professioniste, apparentemente donne libere, ci raccontano che devono uscire la mattina con gli occhiali scuri, con il trucco addosso, con il foulard al collo perché il marito le picchia e il marito magari è un rispettabile professionista come loro. Quante donne sono sentite saltare addosso da uomini violenti, da uomini che improvvisamente si trasformavano da un istante all'altro perché c'era qualcosa che non corrispondeva al loro concetto. Ecco, Massimo Lattanzi conosce gli uomini, tratta gli uomini, parla con i responsabili di femminicidio. Lattanzi, vediamo ancora una volta di fare il punto del maschio tipo che si incammina in questa strada arrivando fino agli eccessi. Ma volendo fare un'estrema sintesi di quanto è stato già detto, e mi piace molto, tipo l'alone di perbenismo, il bravo ragazzo, l'uomo perfetto, è questa la chiave. Spesso queste persone si presentano per quello che non sono, i famosi manipolatori che in questo programma diverse volte abbiamo già affrontato. È proprio questo che abbiamo, forse se non ricordo male, anche nell'ultima volta che ci siamo sentiti. Cioè, detto, il femminicida, oppure colui che compie azioni violente nei confronti delle donne, inizia con operazioni di manipolazione. Questo è importante. Assolutamente. Il troppo disponibile, il troppo attenzione, il troppo perfetto. Perché? Perché ci fanno cadere in una trappola, in una ragnatela, dove noi più ci muoviamo e più ci incastriamo. Che cosa sta a significare? Loro si presentano, io ti comprendo, io ti proteggo. Infatti si parla poco di sentimenti, e questo è un altro messaggio importante, se sei d'accordo, da inviare. Non è amore, spesso è bisogno di sicurezza, di protezione, di disponibilità, di attenzioni, che io, rispecchiandomi in te, ti trasmetto, ti do quello che tu vuoi sentirti dire, ti do quello che tu hai bisogno di avere, perché probabilmente in un trascorso tuo personale, familiare, a seguito di un lutto, di un abbandono, di una separazione, di un rifiuto particolarmente significativo, tu crei una falsa, un falso bisogno, una falsa disponibilità, dicevo, e crei che cosa? Un alone di perbenismo, perché a me serve avere questo alone, questa, essere una brava persona, perché tutti crederanno poi a me nel momento in cui la vittima predestinata, prescelta, dirà: Massimo Lattanti, lo psicologo, lo psicoterapeuta, mi ha maltrattato, mi ha violentato. Sembrerà impossibile, tutti diranno: ma no, assolutamente, una così brava persona, Lattanzi, non farebbe male nemmeno una mosca. A una mosca, tantomeno una persona donna. Mite. Io posso dirti una cosa, Lattanzi. Prego. Le persone che ho saputo, per testimonianza le loro donne, e poi le voci girano, che picchiano le donne, apparentemente erano dei damerini, uomini quasi inoffensivi, quasi femmini nell'aspetto, si posso dire. Quasi femmini, addirittura con dei tratti di totale negazione di ogni irruenza, virilità, brutalità. Ti dico, devo fermarmi. Prego. Un secondo, Lattanzi, o dare la linea. Però prima di dare la linea voglio leggere 2 o 3 sms, perché toccare il femminicidio a questo punto di vista dà molto fastidio, perché lo tocchiamo dal punto di vista del realismo, non del racconto. A parte quelli che mi dicono che sto facendo delle boldrinate, sfido chiunque a trovare dei punti in contatto del femminicidio, come viene parlato, in maniera politica o in maniera ideologica, e come lo stiamo parlando noi. Poi mi dicono che io già ho tutte le caratteristiche per diventare un femminicida, poi mi dicono sono un insulso, poi mi dicono ecco, abbiamo capito che ti hanno trombato il Rai, non sei proprio capace a lavorare. Lo accetto, però ditemi in che maniera si dimostra che non sappia lavorare. Via dicendo, cioè, comunque il senso generale è che tutti sono annoiati, stufati, che ci parli di questa roba, ma che ce ne importa? Volete che vi dica che il femminicidio è un uomo tatuato, rozzo, di bassa cultura, puzzolente, che gira con una spranga di ferro in mano? Solite ve lo dica, è anche quello, ma il femminicida è il vostro miglior amico, il miglior professionista che conoscete, il miglior padre di famiglia, il marito, il fidanzato e l'amante più affettuoso, purché questo si sappia. Io mi prendo la responsabilità di essere considerato anche io un femminicida. A tra poco. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Franco Schipani, Alessandra Fiori. Buongiorno. Tintarella di luna, tintarella color latte. Alessandra Fiori e Franco Schipani ci tengono compagnia per tutto il mese di luglio con Mix 24 Estate, raccontandoci gli anni 60 e 70 attraverso la musica e la storia. Tutte le mattine alle 9.30 su Radio 24. E se c'è la luna piena, tu diventi caro. Melog, cronache meridiane. Inizialmente mi ha proprio preso al collo, ma tentando di strangolarmi, mi ha sbattuto a terra, mi ha preso a calci, ha fatto di tutto. E io devo dire che, cioè, ho tentato di divincolarmi in tutti i modi, ho cercato di respingerlo, sono riuscita a dargli un calcio, ma poi ero in qualche modo ero bloccata sia dallo shock, perché per me era uno shock assoluto questo, cioè non puoi pensare che la persona che ami e quella sulla quale tu hai la massima fiducia, la massima apertura, ti può mai fare una cosa del genere, no? Quindi stai lì che elabori lo shock mentre lo vivi. E nello stesso tempo ero annichilita, perché non so, cioè scatta qualcosa per cui sei lì e non capisci e dici non è possibile, adesso si fermerà, non può farlo, non me lo può fare. 800240024, parliamo di femminicidio, mi scrive un ascoltatore via SMS, non ho mai picchiato nessuno, ma quella volta mia moglie mi ha pugnalato con le parole, ho reagito, mi sono fermato quando ho visto le mie mani che stringevano il suo collo. Il meccanismo è questo, è chiaro che ci può essere dei momenti in cui le persone ti portano all'esasperazione, il sapere prevenire questa esasperazione, magari evitare di trovarsi in questi momenti, ma in questi momenti mai arrivare poi al punto di passare alla violenza. Poi mi scrive un altro ascoltatore, mezzo uomo, questa certezza di essere uomini interi, verificatela con i discorsi che poi le vostre donne fanno alle loro amiche, che le loro amiche raccontano agli amici, che gli amici delle loro amiche sono anche i vostri amici. Attenzione, avere sempre la sicurezza di essere uomini completi. Mezzo uomo comunque sono io. Parla alle donne che tritano i marroni giorno dopo giorno per anni fino a far scoppiare la violenza finale. Allora, io penso di essere un caso di persone a cui hanno tritato i marroni da quando è nato le donne, quindi so esattamente quanto li tritino. Questo non giustifica il fatto che uno le picchi, le meni, le maltratti. Uno sappia svincolarsi dal tritamento di marroni, se ne vada, eviti, non si trovi nelle situazioni di tritamento di marroni. Le donne lo fanno, per natura loro sono delle tritamarroni, siamo d'accordo. Ma questo non giustifica il fatto di picchiarle e di sopraffarle. Fabrizio, buongiorno. Ah, eccomi qua. Dunque, io non mi considero di poter insegnare niente a nessuno, però una mia opinione ce l'avrei. E certo, giusto. Ed è questa. L'uomo è un abitudinario, la donna invece vuole sempre un rapporto al top della possibilità. E io pensavo il contrario, pensi un po', pensavo il contrario. Nella mia vita mi ha insegnato il contrario. Le donne esigono e l'uomo si accascia sulla routine, però ognuno ha il suo punto di vista. Ma il fatto è questo, che quando la donna vede che un rapporto non funziona, vuoi perché il marito magari è schiavo della pornografia, perché questo è il veleno di ogni coppia, allora cosa succede? La donna dice, caro, qua non andiamo più bene e io ti lascerei perché... L'uomo cosa fa? Si sente abbandonato, si sente come un cane in mezzo all'autostrada. Vabbè, lui poteva fare meno di ammazzarsi di seghe davanti alla pornografia e pensa un po' più alla moglie. Scusi, allora? Ma sta parlando della sua vicenda personale? No, non c'è nulla di male. Allora, la mia vicenda... Io praticamente con la mia ex moglie ci siamo presi a schiaffi a vicenda. Cioè, tanti ne prendevo io e tanti ne prendeva lei con la stessa forza. Vabbè, quindi... sarà un gioco fra voi che era condiviso, che devo dirvi, non so che dire, ma qual è il senso di tutto questo? Se l'uomo, le diceva, è schiavo, si è lasciato la moglie, è lecito che reagisca in maniera violenta? Ma il problema è poi tutto quello che... non è possibile prendere il discorso con leggerezza, perché l'uomo, dopo un matrimonio regolare e dei figli, che si ritrova da solo, praticamente si ritrova anche povero, quindi vorrebbe salvare capre e cavoli e vorrebbe convincere la moglie a rimanere con lui. Quando questo non è possibile, scatta questa faccenda che non dovrebbe mai scattare, però è troppo carico di risvolti economici. Allora, io sono d'accordo con lei, Fabrizio, su un fatto che oggi, per come è concepito il matrimonio, è una tagliola. Una volta che uno è dentro, soprattutto l'uomo, uscirne è una cosa pericolosissima, perché l'uomo rimane sotto un ponte in mutande, perché abbiamo un diritto che da sempre e comunque prevalentemente ragione, oppure fa un divorzio favorevole alle donne se non sei d'accordo. Ok, siamo d'accordo, ci pensi bene oggi chi si sposa, perché poi alla fine è questo. Chi sta dentro comunque trovi altre forme possibilmente in tempo rimedia questa situazione, o faccia un patto, dice vabbè non ci ammazziamo e via dicendo, oppure sono fatti suoi, ormai si è sposato e quindi sta dentro. Ma tutto questo non giustifica il fatto che l'uomo, per quanto arrabbiato, per quanto scornato, per quanto maltrattato anche dalla giustizia, poi picchi una donna. I casi che abbiamo visto, che sono da manuale, sono tutti uomini che non ammettono di essere lasciati una donna. Questo è il punto. L'uomo deve entrare nell'idea che comunque, anche se te la sposi una donna, questa potrebbe cambiare idea, innamorarsi di un altro o stufarsi di te e lasciarti. Entrare in questa idea. Amalia, buongiorno. Buongiorno. La mia è una testimonianza in diretta. Sono stata testimone per 9 anni di soltanto un dito, non ho mai visto, però era il mio dirimpettaio, funzionario a Bruxelles, auto blu, quant'altro, educato quindi scolasticamente. Un giorno, l'ultima volta che l'ho sentito inveire, è stato il giorno di Natale, ho cambiato casa, per i biscotti. Per i biscotti hanno iniziato a litigare, era il giorno di Natale, l'ha picchiata, l'ha insultata come io non ho mai sentito, nemmeno da un uomo di strada. Quindi l'educazione scolastica e quindi la cultura non è proprio, come dire, il limite. Oh, dai, l'insegnamento non frena l'istinto violento. Ecco, questa collega con questa signora ci ha mai parlato? Sì, io sono andata da lei perché mi sentivo, cioè sentivo che piangeva, no? E quindi lo incontravo nell'ascensore, ero, dicevo buongiorno e abbassava gli occhi. Da lei ci sono andata anche perché erano occhi neri. Ma avete mai parlato di questo fatto che il marito la picchiasse? Sì, io gliel'ho detto, le ho chiesto se aveva bisogno di aiuto, lei mi ha detto ma no, non ti preoccupare, poi lui è un buono perché vedi mi ha appena comprato questo, mi ha appena fatto quest'altro, e quindi lui, erano soltanto momenti in cui lui si sfogava che lei giustificava. Io ho vissuto lì 9 anni. E questo funzionario di Bruxelles usciva tutto bello, impettito, con l'autista che l'aspettava, irreprensibile, e la moglie c'aveva gli occhi neri. Fermo un attimo, resta in ascolto. Massimo Lattanzi, questo è un caso da manuale, direi. Assolutamente sì, dove c'è la manipolazione anche lo status, sentendo la signora in questo senso, ma spessissimo è così, perché la frustrazione e la perdita di controllo, a volte basta un attimo, adesso in questo caso l'escalation sembrerebbe essere stati i biscotti, ma probabilmente la scoperta di un segreto, di un tradimento. Queste persone essenzialmente hanno una componente narcisistica molto forte, non ammettono, non possono accettare che qualcuno scopra qualcosa, la vera essenza di queste persone, perché spesso queste persone sono se stesse nel momento della violenza, scaricano la loro rabbia, l'aggressività, tutte le frustrazioni in quel momento, cioè tu sei il mio parafulmine esistenziale, emotivo e passionale. Mi dice un ascoltatore una ipotesi molto giusta, cioè, ma l'uomo picchierebbe la donna se la donna avesse pari forza. Se per assurdo le donne avessero la stessa forza fisica e la stessa aggressività del maschio, ci sarebbero altrettante vittime quante ce ne sono? Una bella domanda. Valeriano, buongiorno. Buongiorno. Ma io credo che, premetto che quando una persona arriva lì, il controllo, questo è, credo sia palese e non bisognerebbe mai arrivarci. Ritengo che molte volte sia l'incongruenza dei ruoli all'interno della coppia, ovvero se uno lavora 8-10 ore al giorno e l'altro, o per vicissitudine o perché lo si è scelto, si trova a non fare nulla, molte volte l'uomo pretende cose dalla donna che oggi non sono più attuali. Cioè, se la donna perdesse il lavoro, l'uomo diventa il suo despota, dice rimettiti a fare la casalinga, la donna non più abituata. Esattamente. Ma questo qual è il rapporto, diciamo, poi con la violenza? Che la donna si ribelle e l'uomo non accetta si ribelli. Esatto, l'uomo non accetta che si ribelli perché si sente in diritto di poter comandare per il fatto che in quel momento lui lavora e lei non lavora. Lei sa, ha elencato una fattispecie possibile, però vedete qual è la nostra tendenza? Di creare tutte le circostanze che giustifichino l'atto. Il divorzio che è sfavorevole per gli uomini, la donna che non lavora e l'uomo vorrebbe che facesse la casalinga e non è più abituata a fare la casalinga, le donne che sono delle tritapalle. Diamo sempre delle giustificazioni per dire sì, ci siamo portati per forza. Proprio questo è il punto. Non esiste circostanza per cui un uomo debba ammazzare una donna. Un uomo se ne va prima, sbatte la porta di casa, lascia quella donna, o se la donna se vuole andare la lascia andare e se ne fa una ragione. Ma il fatto che entri in questa escalation che comincia con l'offesa per essere stato abbandonato, che va avanti nell'escalation con un possesso che deve essere somministrato prima con le parole, poi con la violenza fisica e alla fine con l'omicidio, mi sembra una cosa su cui riflettere. A tra un istante. Melog, cronache meridiane. Parliamo di femminicidio, continuo a registrare il disprezzo del pubblico, perché io direi cazzate, ma sto parlando di qualcosa che all'ordine della conoscenza di ognuno, non ne parlo in maniera ideologica, non sono un boldrinista come dite voi, non me ne importa assolutamente nulla, sto parlando di un problema che sento sulla mia pelle in quanto uomo, in quanto tante volte mi sento tentato a imporre la mia superiorità fisica, a volte anche dialettica, a volte anche di irruenza nei confronti di donne, e questo fa parte comunque di una natura profonda di ogni uomo educato da una madre, educato da una famiglia, via dicendo, che in fondo la bambina è sempre quella che comunque in qualche maniera deve essere sottomessa al maschio. Questo forse è il caso che finisca, perché le donne ormai hanno acquistato la loro autonomia. Può piacere o non può piacere, uno può essere anche nostalgico dei bei tempi in cui le donne erano odalische. Dovete dire cosa penso, quale sarebbe la condizione della felicità. Certo, la felicità era, la felicità è la condizione del sultano. Essere un sultano, poter scegliere tutte le donne che uno vuole, sempre arrendevoli, sorridenti, pronte a elargirti piacere, pronte a elargirti autogratificazione, dire che sei il più bello, il più bravo, il più potente, il più grande amatore. Chiaro, ci piacerebbe a tutti questo, ma questo accade soltanto nelle favole di Ali Baba e 40 ladroni ormai. Nella realtà non c'è più, facciamocene una ragione. Adele, buongiorno. Buongiorno. L'ascolto. Sì, buongiorno. L'ascolto. Niente, ho chiamato soltanto per raccontare un po' la mia esperienza, perché io sono del Marocco e ho vissuto qua più di 28 anni. Ho avuto una moglie con quale ho avuto tre bambini. Questa donna qua, quando è arrivata qua, era a posto, diciamo, tutto a posto, io lavoro e lei a casa, perché io chissà anche se può lavorare per darmi la mano, invece stava a casa. A un certo punto... Cioè, faceva volentieri, vuol dire? Sì, volentieri, perché non ho mai... portava anche il velo, e poi l'ha tolto e gli ho detto, guarda, io non ti costringo mai a fare una cosa che non ti piace a te. Vabbè, no, aveva possibilità di scegliere la sua vita, va bene. Questo. Bravo, io ho detto, scegli la tua vita, però il tradimento non lo posso accettare, perché quando l'ho beccata che mi stava tradendo, allora a quel momento cosa ho fatto io? Per non commettere errore, perché la porta era blindata, non mi si è aperta. A dire il vero, se mi si è aperta la porta potevo anche commettere guai. Però sono uscito. Cioè lei ha scoperto che sua moglie lo tradiva, che è una cosa che può accadere, è brutto, no. Diciamo che è una cosa che non fa piacere a nessuno, però può accadere. Cosa ha fatto? Cosa ho fatto? Io per non stare in Italia ho lasciato il lavoro, ho lasciato la casa, ho lasciato tutto e sono andato nel mio paese per tranquillizzarmi, perché sennò potevo commettere guai, perché potevo venire a cercarla il giorno dopo o l'altro giorno, così. Poi lei mi dice, Adele, scusi Adele, prima voglio capire, sì. Lei mi sta dicendo con grande sincerità, sì. Per diciamo la mia cultura, come ero abituato a essere educato, per tutto quello, per la rabbia che avevo, sarei stato anche capace di ucciderla in quel momento. Sì, sì, sì, perché ho detto quel momento, e grazie a Dio non mi si è aperta la porta, perché ho cercato di sfondarla, perché non ho accettato una cosa del genere. Volevo, perché io sempre discutevo con lei, dicevo, se io non ti piaccio, se c'è qualcosa che non va tra noi, è meglio che discutere. Avevate anche tre figli, mi sembra di aver capito, no? Bravo, sì, perché quando lei ha avuto il figlio, basta, ha detto, il mantenimento dei miei figli mi fanno bene, a me di te non me ne frega più niente. Però Adele, può succedere che un essere umano si rompa le scatole, o sia malvagio, sì, o sia infame, traditore. Però può è esserci. Meglio discutere, è meglio discutere. Se lei non mi vuole, anche io non la voglio, però è meglio discutere. Però fregarti, una cosa dei fatti le corna, senza che tu vieni a saperlo, è una cosa brutta. Beh, le corna che tu vieni a saperlo è un po' ardito, uno le fa sempre di nascosto le corna. Questo. Sì, perché io dico queste cose, perché queste donne, alcune donne, spingono l'uomo a ucciderle, perché questa qua io l'ho lasciata andare. Ho dovuto cambiare anche paesi dove abito, ho dovuto andare lontanarmi di lei. Però lei fa il furba, per esempio. Adesso lei in Italia c'ha la cittadinanza italiana con i figli. Cosa fa? Ti denuncia in Italia perché non paghi il mantenimento. Paghi il mantenimento in Italia, vai in Marocco e fa la denuncia che tu non paghi il mantenimento in Marocco. Fa il doppio gioco questa qua. Adesso l'ho capito perfettamente. Lei purtroppo è incappata una donna che ha una sua maniera personale di applicare il rapporto coniugale. È una donna crudele, probabilmente, che l'ha presa in giro, l'ha tradita. È una donna infame quanto vuole. Lei ha capito perfettamente che se lei fino in fondo fosse entrato in questa trappola avrebbe anche picchiata, magari, perché in quel momento, se si fosse aperta la porta, voleva sfondare, l'ha anche picchiata. Lei secondo me ha fatto una decisione di grande civiltà. Lei se n'è presa e se n'è andato proprio per non trovarsi schiavo di quella violenza sentiva dentro. È chiaro che è dura da sopportare, è chiaro che è un problema, è chiaro che questa donna è stata scorretta nei suoi confronti, ma altrettanto chiaro che se la ammazzava o la picchiava, oggi stava peggio. Quindi tutto sommato ha fatto la scelta giusta anche per lei, d'accordo? Adesso cavoli so, adesso sono a posto, è lei che deve prendere la responsabilità contro i figli. Lo so, mi dispiace, è una brutta situazione, però Mi fa capire, Adele, Massimo Lattazzi, che anche nelle situazioni che sembrerebbero più a rischio, una persona viene dal Marocco con una cultura che comunque considera la donna un essere subordinato, in cui è molto facile che possa passare questa subordinazione in un rapporto di sopraffazione, ha fatto la scelta giusta, ha preso e se n'è andato per non entrarci dentro. Assolutamente sì, conosco abbastanza bene questa situazione, perché nel caso di Rebigli abbiamo diverse persone del Nord Africa, ma mi permetto di dire che è pieno anche di italiani che hanno le stesse situazioni e che non sopportano un fallimento familiare. Noi dobbiamo educare essenzialmente gli uomini ad accettare il fallimento. Il nostro lavoro di gruppo di tipo di risocializzazione che da circa 5 anni portiamo avanti nel carcere di Rebibbia, dove accogliamo e sosteniamo questa tipologia di persone, è proprio indirizzato a questo: accettare un fallimento che fa parte della vita, perché il fallimento si può superare. Commettere questi reati, che possono portare anche all'uccisione di un'altra persona, significa perdere definitivamente, come nel caso di Adele e nel caso di molte persone che seguiamo, la famiglia. Quindi dobbiamo essere, per quanto possibile, educati alle relazioni, perché si parla tanto di educazione. L'importante è l'educazione relazionale, perché se no ci scattano dei meccanismi anche inconsapevoli che ci possono portare a commettere dei reati, commettere delle azioni che non avremmo mai pensato di poter commettere. Quindi preveniamo, chiamiamo strutture come la nostra, come il centro anti-stalking di Roma, e parliamone, condividiamo, perché sono tante persone, siamo in tanti a poter soffrire di questo. Diciamo, Lattazzi, è un po' come funziona per gli alcolisti o per altri tipi di dipendenze. Sono delle persone che condividono un problema assieme a degli specialisti e li aiutano a superare questo problema. Assolutamente. La recidiva si combatte così. Ecco, quello che viene considerato un istinto naturale, come una donna ti tradisce e tu non ti arrabbi. Certo, mi arrabbio, ci sto malissimo. La mia natura maschile porta a considerare una sorta di onta insanabile la donna ti tradisce. Poi magari ognuno si approfitta delle mogli degli amici, delle fidanzate degli amici, di donne sposate, fidanzate, impegnate, pensando che a lui tutto è permesso. Ma quando accade una donna che tu consideri tua, certo, ti si apre il cielo. Certo che è spiacevole, non posso dire che è una passeggiata, ma lo scatto di civilizzazione è proprio in quello, che di non far seguire a questo senso di spiacevolezza un'azione violenta. Perché? Perché è anche peggio per noi. Giulio, buongiorno. Buongiorno. Molto brevemente, mi è capitato molte volte durante le mie relazioni. Io vivo tuttora in una... Quanti anni hai, Giulio? Quanti anni hai? Sono il più giovane, ho 26 anni. 26 anni, bene. Vivo con la mia famiglia, ho vissuto con la mia famiglia fino a poco fa, fondamentalmente matriarcale, quindi sono stato pieno. Quindi la mamma comandava su tutti? No, c'erano molte donne, c'è mia madre, ho 2 sorelle, poi sono... Chi tiene in mano, diciamo, lo scrigno con le palle di tutta la famiglia? La mamma, le sorelle? Certo, la mamma. La mamma, è certo, naturale. Ah, beh, questo è normale. Ti auguro di andartene presto, così acquisterai, capirai che la vita è anche altra. No, è già stato fatto. Allora, Giulio, dimmi il tuo punto. Sì, allora, il punto è il seguente. Non ho mai desiderato, né avuto desiderio o l'impulso di picchiare o, insomma, commettere alcun tipo di violenza verso... donne in generale. Non è la mia indole e non è una cosa che farei naturalmente, considerata la famiglia che ho avuto. Il problema qual è? Che mi è successo molte volte di incappare in relazioni con donne intelligentissime, meravigliose e tutto quanto, che però nei momenti di crisi è come se avessero avuto bisogno di una sorta di violenza. Mi spiego meglio: non si alzano le mani, non è questo il punto è che molto spesso hanno bisogno di sentire, è come se avessero bisogno di sentire che l'uomo deve in un certo senso alzare la voce. E a questo punto chiederei a Lattazzi se la problematica è mia. La sigla non permette di dare una risposta esaustiva, ti dico per la mia esperienza. Non si afferma la propria virilità, che le donne chiedono giustamente, che sei uomo, alzando la voce o alzando le mani. Si afferma in tanti modi e si capisce come è possibile farlo quando si è troppo vecchi per frequentare donne. Purtroppo è questo il senso. Alla prossima.